traffichi positivi, capito? Dominà, è una cosa strana. Non sei uscito adesso. Ehi, K, ti ringrazio. Caspita, boh, infatti sto uscendo fuori di testa perché a me mi sembrava che non stava uscendo, capito? Ehi, K. Caspita, adesso lo chiudo a vedere, là. Lo chiudo così allora. Ehi, K, ti ringrazio, Leo. Soldi. Un po' di tutto. È meglio che non ti racconti niente allora da questa zona. Oh yeah. Cazzo, sono entrato in questo sito per ritirarmi gli esami che domani c'ho la visita, non mi fa entrare questo bastardo. Mamma mia, se non mi ricordo di domani ando, piglio una macchina, cazzo! Entra dentro, cazzo, e mi rimagno! Sì, poi con questa storia dei siti, di fare molta roba online, è diventata una rottura, una dannazione. Guarda, mio Dio, per fare delle analisi del sangue un calvario ha dovuto fare, l'hanno mandato da una parte all'altra. Qui no, qui non si può fare, qui devi prendere appuntamento mesi prima, qui non so cosa. Una cosa allucinante. Avevo visto un tuo messaggio, Natali, ma era di ieri, avevi detto ci sei, ma dovevi fare prove. Te lo dico per telefono. Ah, ok, ok. Che altro c'è sul 10? E chi ne, non è ciò. CQ10, c'è qualcuno in ascolto? CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? CQ10? Allora, CQ10, c'è qualcuno in ascolto? Chi è avanti? Avanti. Avanti, c'è qualcuno sul 10? Come l'abbiamo salita su, ha toccato da qualche parte, evidentemente si è piegata un po'. E vabbè, tanto la devo buttare giù, è l'antenna che in inverno non la puoi usare, ci salgono le stazionarie a 2,5 che si piena d'acqua. Breccoso, anti-breccoso. Buonasera, bulldozer, il mio forte Rocky. Mi va giù il giappo di Cripto e no. Quella di Sebucci sono tazzetto, saluto. No, stamattina. Ah, stamattina. Ciao. Non si vede. Perché? Avanti, ciao Daniele, buonasera. Ciao Massimiliano. Ciao Daniele, sei la Lecce di Buco, sei scelto? No, non solo sono la Lecce di Buco, veramente noi eravamo in un altro canale e siamo venuti qua a salutarvi. Se non ci volete ce ne andiamo. Ma vai, ma che cosa stai dicendo? Comunque va Giuseppe, ho già fuoricritto e ho già. Comunque saluto Carlo, Natalino, Gianni, poi non so, non ho fatto ascolto, non so chi c'è. Ciao Massimiliano, ciao Daniele, c'è anche Claudio, Natalino, Gianni, io e non so se c'è anche qualcun altro. Io saluto, ho già fuoricritto. Già fuoricritto. Non vai un ciaffo, tu non vai un ciaffo. Vai che vai di fritto, non vai un ciaffo. Andere a Filippo o Claudio, che ha detto già varo già fuoricritto. Mica gli ha usato, ha giubeggiato lo dubbo, giovane. Che miseria, mi avrei dimenticato, attenti. Come farò già? capo di sede. Cambio il clinica, sembra una morsa, ma salite nell'aria. Ciao Spillo. Salutoni circolari a tutti, ciao Claudio. Ciao Daniele, ciao, ciao, ciao. Buonasera, intanto ben entrato. Siamo giù da ancora. Abbiamo buttato la presa per adesso col tubo. Ma sta lì, vedi Marco come ti fini la mano, lì c'è la borsa a viso. Già ne c'è qualcosa io, Marco chi? È un amico nostro, dai, di mio, di Natalì. C'ha una stretta che è allucinante, una morsa sembra, ma cazzo stringe in una maniera che ti fa malissimo. Quello della mano a buttare a me. Vabbè, no, non si dicono questi segreti, là, cazzo, da voi la approfitta lì. Mi ha mandato anche il YouTube, ho detto, buono, lo stai facendo storto, buh. No, l'hai piegato, è stato facendo storto, l'hai piegato. Tanto è vero che il piantone da 60 a 55 entra sino dove tu l'hai piegato. io. Riprende Carlo. Sono tra radio e fornelli, sono in cucina, per cui c'ho sempre tutto acceso qua. Vai Natalino. Ehi, cosa vuoi? Il bulldozer è abituato a qui a ciaffiare la penna di cavatore quando non fate la brava. Dice è meglio che non lo vedi mai, perché ci ho filmato io che da paura. Ci dovrebbe dire, dice, fate la pubblicità di Antenna 1. Per carità, ma non mi ricordo quella foto che mi hai mandato, stavi scendendo, che ti hai fatto hai fatto la montagnetta sulla benna, lui si è stato in punta, dice girato, a giosso, mamma mia come sto. E ora giù che invece puntendirà la penna e farendirà da un luogo asciugo, e quello l'ho visto davvero. Ha ragione Natali, mi ricordo là, stavo facendo uno scavo lì vicino alla cassa Edele, sì mi ricordo che eri venuto. Io glielo so qui è spericolato, Massimiliano, mamma mia, quando la Svizzera può tendere la penna, a Svizzera ne può fare la giostra, ed è farato. C'ho la prova, ma era del tuo allo scavatore Massimiliano, già lo so. C'ho la prova, lo sa fare, canto molto bene, si diverte anche, si luce. Vai già, Daniele. Ecchine. E quindi a tale, con quella foto quella roba, sono riuscito a inviarla. E se no, virata zì, candela minchivi. C'è scritto così perlomeno. Come ha messo il modulo, io ho subito compilato, capito? Poi ho subito inviato e dopo è uscito tutto il resto. Poi ne ho scritto due, però ho fatto già tutto e spero che vada bene. E io glielo do quando siamo lì. Raga, ma riprendi con lei. Ma l'ICE è rinnovato, va bene, rinnovato. Cosa fa? Si è avete rinnovato l'ICE. No, non c'è, non l'ICE, no. Per quella cosa hai detto l'altro giorno, famosa. Quella cosa che mi hai detto famosa. E Daniele, io voglio cercare un Buglioni. Che sono un anno cercando di fare, anzi di più, 3 anni tutto. Ah, ehi, va bene. Adesso aggiungo il sole 9:10, 7:30, mamma mia, ho rotto la riballa questo. C'è la biglia di fusolata quest'anno. Quest'anno è un po' me. Avanti, Massimiliano. No, io l'ho fatto anche da poco, l'ho fatto perché gli assegni familiari sono cambiati, adesso non li dà più l'azienda, li dà direttamente l'INPS tramite che fanno il versamento direttamente a loro, capito, sul conto, e quindi l'ho dovuto fare, che hanno voluto quello, sì, adesso vabbè, a giugno 7:30 adesso mi prendo l'appuntamento, me lo voto, tanto fatto il vato, lo rimesso più. Anche quest'anno devo dare un bel sicuramente. Non ci voglio pensare, quando sono andato al caffè, ho già preparato tutto, ma non devo volare. Non devo volare un bel buco, e ci ho venuto a casa, questa, tre balle, avanti, cazzo. Tutti così siamo, anch'io ho fatto l'assegno unico, perché non ci sono più né nelle detrazioni e i figli a carico in busta paga, per cui, capito, bisogna farlo lì al centro di assistenza fiscale. Io l'ho fatto al CAF e ho preso l'appuntamento per il 7:30, che ce l'ho il 16, ma non ci posso andare e ci andrà mia moglie, poi passerò a firmarlo io l'indomani, perché purtroppo mi hanno dato i turni in ritardo, quindi avevo preso l'appuntamento di sera, invece c'è un turno centrale, finisco tardi, però tutti gli anni una rottura di palle, 7:30 e ISEE e assegno unico, insomma, chi più ne ha più ne metta. Vai Gianni. Io sono già andato, devo andare solo a ritirarmelo e basta, a metà mese devo andare a ritirarmelo, ho fatto il gioco. No, sono già andato, già fatto tutto, deve solo scaricarlo perché ancora non gli permetteva di entrare. E quindi a metà mese devo andare a ritirarmelo e basta. Ma segno unico già? No, no, 7:30. Minchia, che ho però fatto, cioè, fino al 30 settembre tempo. No, no, io non sono d'accordo, c'ho appuntamento il 25, mi fa. Il 25 di maggio lo portavo il tutto. E poi andò. E vabbè. Altro di palle, Carlo, lascia perdere, la di successione, avete la casa e che ballate, a me 7:30 quest'anno mi costa un po' di soldi sicuramente, vabbè, pazienza, vai Daniele. Gara, è un casino, no, io già fatto tutto in anticipo per evitare tante ragioni burocratiche, altri casini, so che devo tutto. Io ho già appuntamento domani a Rugaf e da cui devo andare a fare la visita diabetologica, quindi chissà che non esco domani. Io 2 anni fa ho pagato 3.000 euro. Daniele, vabbè, ma non è diverso, capito? Abbiamo fatto anche successione, per San Francesco, mi fa sempre soldi, un casino, per forza devi darsi sicuramente. Quando si può il reddito, l'Inps non buffoneggia. Avanti Gianni. Un attimo, Claudio, io 2 anni fa ho pagato 2.980 euro perché superavo il reddito, capito? Tra stipendio e pensione praticamente superavo il reddito, adesso se non te lo possono dare perché te lo danno? Dimmi che non me lo puoi dare, boh, basta, non è che mi fa pagare tutto insieme. Lo so, ciao Ante, buonasera, lo so, è così già purtroppo. No, io vabbè, no, non è per quello, io non ho pensione di invalidità, non faccio accumulo pensionistico, capito, ma ho fatto delle operazioni e delle vendite, ho incassato un sacco di soldi, quindi sempre il reddito, perché ti va a reddito, non c'è niente da fare, e quindi con 7:30 sicuramente devo cacciare un bel po' di soldi. Ciao Antonio, avanti, riprendi. Kappa, buonasera a tutti, non ho fatto molto ascolto, comunque mando la buonasera a tutti quanti. Andiamo, e Luca. Dai, ti finisco il computer, ciao a tutti. Beh, io saluto tutti, dai, che sto andando. Ciao Luca, saluto tutti che stanno a portare giù il cane, dai. Ci sentiamo, buona serata a tutti e buona continuazione. Ciao. Buona serata, buon tutto, ciao Berilve. Avanti Massimiliano, fai girare. Positivo, allora, ciao Gianni, saluto Antonio e a Luca, che non so se c'erano da prima, anche io mollo, scendo giù. E vediamo cosa c'è da fare, dai. Ok? Ci sentiamo alle prossime. Riprendi Luca. Vi saluto a tutti. No, ma io sono ancora arrivato. Ciao anche a te. Alla prossima. Avanti Antu. Kappa. Salutoni. Ci sentiamo alle prossimine. Ciao Massimi. Saluti a casa. Avanti Carlo, fai girare. Per disarrubare me, per il bella. Io dico ciao a tutti, dico ciao Claudio, ciao Antonio, ciao a tutti. Significa ciao a tutti, no? Ciao a tutti, ciao. Non mi mai dici ciao a me personalmente, hai capito? Vai, cagare. Gianni, ciao Massimiliano, buonasera Luca e Antonio, vai Natalino. Ah, riprendo io per salutarvi, che me ne faccio anche in QRT. Vi ringrazio per le quattro chiacchiere, alle prossime. QRT per me. Ciao Tartali, ciao. Ci sentiamo. Vai Daniele, e anch'io un altro passaggio, poi spengo e vado a cenare. Vai Daniele. Siamo Tony. Ciao Luca, ciao Antonio, ciao Gianni, che stai chiudendo, Natalino e Massimiliano, dai, alle prossime sei coincide. Riprendi, Bomboli. Scappa, grappa, saluto Natalino, ci risentiamo alle prossimine. Cazzo, Anto, qua fa la pa, la benina a te, una di cazzo, una la rimani, a Giovrida va, qua fa una bennina, allucinante, grazie. Ma che imbarazzo c'è due? Porca, ho due volte ho dovuto la resetta formattare, perché non me le dà, quasi c'è la ci sono. Adesso ti faccio la configurazione del computer. KK, adesso funziona la penna. Sì, boh, non so se gli ha preso, comunque ti ho messo anche musica alla discoteca, le telescili che sono le cancelli. Capa, no, mi interessava il karaoke e basta. Musica alla discoteca da un'altra parte. Va bene. Allora, ragazzi, vi saluto per pronta la cena. Ciao Cariello, ciao Antonio, ciao Carlo, Daniele, Natalino, Gianni, Massimiliano che è uscito e tutte cose. Il cambio per Carlo, corretti per me. Buonanotte a tutti, ciao. Yeah, ciao Claudio, buonanotte, buona cena. Se va bene ci sentiamo domani, dai. Vai Antonio. Buonanotte, grazie, ci sentiamo domani, alla prossima. Poco fa il TDA è più bassa, di tumore, era il bagliante d'antenna. Ho messo quella più piccola. Ciao Claudio, alle prossime se coinciderà, buona carica e buon tutto. Nette, Wuster e panna, sto preparando. E è buona. Chi c'è Wuster, mamma mia, sai la simone in mezzo. Con la simone in mezzo c'è Wuster, visto certi filmati, io infatti per quello le mangio quando me ne ricordo. I ragazzi dicono, io volevo mettere pancetta, eccetera, no, metti Wuster, loro sono così e quindi li accontentiamo, io preferisco la pancetta, quella dolce. Una fattoria. Via, vai Daniele. Io sto prendo la cena da te. Tanto qualche piatto avanza sempre. Sì, anche riprendere la pentola va bene, già perché l'ha fatto un video, se c'è già pulita. Tutte le sere siamo dirittera a quest'ora per la cena e infatti adesso vi saluto, mi sa, perché mancano ancora 3 minuti e poi tra condire tutto e chiamare la truppa si fa tardi, se coincide poi dopo cena se c'è qualcuno già rientro. Buonasera a tutti, ciao Antonio, Luca, Daniele, poi forse gli altri hanno chiuso, Massimiliano, Claudio, ci sentiamo alle prossime, rimango in ascolto, ciao. Ciao Carlo, alla prossima, buona cena e buon tutto, dai, ciao ciao. Ciao Carlo, buon proseguimento e buon tutto, dai, se anch'io se trovo qualcuno lo porti, se faccio due passaggi me li faccio, dai. Riprendi, Bomboli. Caffa, saluto Riccardo, ci sentiamo alle prossime, ciao ciao. Buona cena e buon tutto. Fatto, c'hai un po' d'alternata. Io? Sì, così. Sto usando un'antenna piccola. Ah, ecco, come mai? Fare una prova, com'è? Ah, già arrivi, ma c'è questo... c'è anche una pentolina tutta alternata. Che ci ha portato senza parlare? Insomma, una via di mezzo, tra la pentolina e l'alternata, una alternata leggera, comunque c'è, non sei pulito pulito. Cappa, come arrivo il segnale? Fai. 1, 2, 3, prova. Sul più del più 30, sì. Con quella piccola. Con la bazooka, sì, con la bazooka, come si chiama? Con la Storm. Da te è cambiato il segnale. Adesso sei 9.20 prima delle 9.30. Già funziona, dai, torno con l'altra grande. Cara gama. Un Cariello. Guarda a se c'è ancora l'alternata. Prova. 1, 2, 3, prova. Ora, lo vedi cos'è? Ora, guarda a vedere. Allora, prima no, adesso sì. Sì, abbasso troppo bene. Vabbè, torno con l'altro. Si è agganciato anche con quella. Sei 9.10, 9.20, 9.30, fai. C'è che vuole entrare, avanti. Ah, ho fatto un truglio, che bello. a dirlo. Adesso va meglio, meglio così è. Cazzo, devo dire i conti in amore, tanto. Riesci a prendere un cammino oggi. Chi vuole entrare avanti? Chi è che vuole entrare nel canile? E quindi non lo bacio bacio. No, quella no, però non sta facendo di radio, boh, lo so, fatto lui. Ma il passaggio, grazie a chi li porta anche tu. Avrà fra senza antenna. Che cazzo, sta arrivando 9 e qua senza antenna. No, ma dai, quel previsore, quello che mi ha dato tu, l'ho sistemato, no? Quello sicuramente muoio prima io di lui, per quanto lo uso io. L'importante è averlo sistemato io che funzioni poi. Se no facciamo il problema del coso dell'antenna, là. Poi sto cercando la scheda, l'ho vista su eBay, una cinquantina di euro costa. Va. Ma peccato perché è nuovo. E infatti lo per buttarlo, cavolo, ecco, lo sistemi. E ciccia, capito? Perché se mettono le canzoni te l'avrei spaccato e non mi piace affatto. Perché ti fa problematica, ora è Luca, sarà un po', lo sa il suo sistema. Se no usi a pezzi di ricambio, già va bene lo stesso. Tu pensa di quel televisore lì, ho due pannelli LCD. Hai visto, quindi c'è già quelli di scorta. Alto, te la metto la password, sì? Del computer. Quella che c'è la prima mette. Cappa, ma me l'hai divisa la cartella dove ci sono i cose, Luca? No, io non ho fatto niente, ti ho messo, tu apri la cartella e vedi i basi karaoke, tutto lì, e devi aprire e vedi tutto. Poi magari fai delle prove, la fai su, vai su cerca nel computer e te le dà, capito? Cappa, devo, come si dice, devo abbinarlo a Van Basco. Ah, non erro, se non erro era l'errore la password. Ehi. Ok. No, tu la cerchi poi tra trova, no? Cappa. Metto cosa ne so, Vasco Rossi, Renato Zero, spiagge o più su, tutti altri gatti di nome. E lui mi mette la canzone. Anche così. Anche così, non lo so, io non lo so le basi che ci sono lì, ce ne sono tante, tu pensa sono 100 giga di roba, cioè. Però altro non mi dia chi. Sì, là tu. Cappa, allora bisogna fare così. Bisogna. Andiamo a vedere un po'. Ma posso fare anche delle cartelle a parte? Certo, ma non ci sono le cartelle, cioè. Per esempio ho messo Celentano, c'è Celentano, ce ne sono tante di. Poi. Tanti anche tu, detti a Silla e Funitivi. Poi dovrei avere un CD, ci sono altre basi lì, però secondo me non c'è, con calma. Magari me le carico nel pennino mio, poi vabbè, non so se lo sai fare, copia e incolla. Vabbè, puoi fare anche taglia, e te le carichi nella pennina tua. C'è sta roba nella pennina tua, tu, una marea. Ragazzi, io vi saluto, ci sentiamo dopo se coincide che poi la foto è già pronta. Buon proseguimento e buon tutto. Grazie, buona carica e buon tutto, saluto a tutti, alla prossima. Avanti, andiamo. Cappa, ciao, sentiamo Dani. Sì, io vorrei una cosa che tu scrivi, come fa Costantino. Le mette ta, scrivi e esce il brano, capito? Sì, dopo lo vediamo assieme. Perché devo capire, cazzo, se no devo capire anche dove è il brano giusto. E magari vieni sotto i 100 miglia. Cazzo, sbagli di pigliare il baruguro. Alto, cazzo, siamo due a punta a capo, ti devi esercitare. È come se tu stai a prendere la patente, no? Ti fai delle scuole a guida. Alla scuola a guida, poi ti fai delle guide con tuo padre, con un parente tuo, capito? Così lo computer, fai esperienza prima. E magari impari, così si fa l'esperienza. Io come imparo secondo te? Anche c'è su YouTube, ti fa vedere tutto. Cappa. Comunque già dovrebbe andar bene, dai. Sì. Ma non ci sono anche brani in sassarese? Karaoke? Eia, c'è tutto. Cappa, meno male. Piano piano me le guardo e devo vedere un po' come fare. Come da sotto non funziona, non fa vedere la schiena vidiata. Allora. cani, Antu? Cani io? Sì. Gatti? Dimmi il nome. Te l'ho detto. Ah, Nerone? Uno sì. L'altro era Ceres e l'altro era Jerry. Ma tu me Jerry? Sono tutti morti, poverini. Ma che loro muoiono, come si dice? Muore la gente. Non so. Tu rendi vigi. Perché che te il radio mi ha dato. Ci siamo alla configurazione. Sì. Perché io vado a Costantino, a Buraghito, che prendono, ci portano già i brani, che devi cantare compreso, ci portano già i brani e poi partono a scaletta. Ma tu dovresti fare un po' di esperienza, se Costantino ti aiuta, e se non ti abbia in culo. Già me buon gue, bionghi. Infatti, guarda che impari. Io ti posso dare un piccolo aiutino, capito? Ci siamo qua, dobbiamo solo toccare ancora alcune cose e abbiamo finito. Prova a parlare l'HDMI se tu si pompa. Per forza deve andare, adesso lo provo, lasciami finire il computer. E vedrai che se ci sono tutte le basi che dico io, eccetera, eccetera. Le cose, piano piano mi rubo i nonghi, imparo. Io tempo cosa poi che imparo bene, capito, e so dove mettere le mani, poi già posso già cominciare a travagliare. Guarda, c'è scritto nel computer memoria 1 GB DDR3 e adesso è 2 giga, come detto stamattina. Ciò non ce la fa Windows 10, però il problema è, vabbè, puoi andare su YouTube, magari ci sono anche le canzoni lì, anche volendo, se vuoi cantare da lì puoi fare così, però ti consiglio di navigare il meno possibile, so ti devi mettere un antivirus, ma poi lo carichi troppo, un casino, beh. Ti stavo dicendo, vabbè, qualche cosa su YouTube così, qualche brano che non c'è, capito? Allora, ti faccio il discorso del computer. Praticamente questa qua è più o meno, ti hai preso la patente, non ci sei, e ti hai comprato la 600 a fare esperienza. È così questo qua, questo è un piccolo computer che fa esperienza, poi quando impari bene, che te ne compri un altro, Windows 10, che sai già usare, facciamo un gioco. Beh, normale, l'altro lo comprerò, non sarà molto a comprarlo. E vedrò come mi serve il computer. Proprio il computer mi serve, lui. Mi serve per forza, se devo intraprendere quella cosa ci devo lavorare. Ti dico, almeno un i5 per andare bene, è già bene, la grande. Ecco, possibilmente mi finito il computer. Possibilmente con l'SSD. Adesso devo scaricarti Google Chrome per navigare su internet. Cazzo, non aspetto, vaffanculo, mi si è agganciato il filo al piede. Ah, è una mano, ragazzi. E così, se devi fare delle prove su internet, sono aiutato a dubbio, per errore. Vaffanculo, adesso lo riaccendo. Cazzo, ma si incasina, eh? Oh, no, non è che si mi incasina. Se avessi fatti subito. Sì, dai, è abbastanza fluido, là. Subito, se è lento ci metto un bel. Cappa. Non era male, quello lì era la seconda serie di quell'altro che c'avevo. Ma io ne ho visto piccoli che sono potentissimi. Sì, Anto, potentissimi. Un parolone. Ma che te fai che sei potentissimo? C'è un PC potentissimo, quando vai a navigare su internet deve essere veloce. Tipo il mio che è vecchio, come computer. Però già naviga, perché gli ho messo l'SSD. E va molto molto bene, capito? Va molto bene. Comunque vabbè. Purtroppo questo qua, quello meccanico, il hard disk, ed è un po' più lentino. Ma si bocciamba. Penso quasi va a partire di altro. Un avviso costa, se lo vuoi piccolo, una trentina di euro, 40. Comunque già va bene, dai, guarda, è veloce. Forse gli ha fatto bene cambiare la RAM. Con un giga non viaggiano. Adesso faccio una prova, te lo imposto come doppio schermo, vediamo. Dal televisore. Capo, ora vai a settarlo, le basi. Sì, le basi devono partire per forza. Capo. Ora. Piano piano, adesso faccio l'esperienza, mi devo munire e fare l'esperienza. Bravo. Una volta che so tutto, cavolo, proprio un po' di brani e anche stranieri. Ecco, una volta che, cazzo, che un po' di brani da Saresi, un po'. Una volta che lo so usare bene, posso cominciare a fare qualcosa già. Atto, con questo PC trovo, ti puoi solo esercitare e basta, poi vasco. E se voglio fare una serata, il karaoke non la fa. Torna. Sa parecchio, cioè tu dici che si intrippa se fa una serata di karaoke. Non è che si intrippa, però Anto, ci capito, così, per imparare, poi puoi anche provare, non so, devi solo provare, non si può usare di tipo. Comunque, la penina la sta leggendo, piano piano Anto, e poi si vedrà cosa fare, là. Perché con Windows 7 non andava bene, Windows 7 essendo più leggero del 10 andava meglio, però purtroppo non lo carica, cioè non mi dà la pigliata, ecco. Cazzo, ma c'è un cosa per scaricare, però non ti rifai più nulla così. E poi lo proverai, dai, non ti preoccupare. Ciappa. Ma mi ricordo che questi computer avevano due programmi, è vero? Aspetta un attimo. Via. C'è due programmi. C'avevano Windows e Mac alcuni. No. Questo qua è nato con Windows. Con Windows 7 starter. Infatti io gli avevo messo quello. Ecco, un giorno babbo che mi aveva detto, non so, mi ricordo se è quello, non mi ricordo se è quello lì, però uno ci aveva due programmi diversi. Non so, per quanto so io, Che lui aveva preso e aveva detto, mia merda, mi deve pure un chiccio di programma. Era Mac, qualcosa del genere. Mac della Apple. Non lo so. Comunque c'era un altro tipo di programma che si poteva usare. Se potevi fare due scelte. Aspetta che adesso siamo arrivati. Sta caricando, forse perché sta aggiornando. Faccio qualche aggiornamento e sta rallentando un po'. Lascia vedere. Mi ha tomato una foto, aspetta. Ho visto. Imposto la scheda audio. Come deve essere? Che cazzo è la audio? Vediamo un po'. Dovrebbe essere qua. Allora, di controllo, lascia vedere. Di controllo audio. Ecco qua. Sì, è già a posto. È già impostato. Poi uscisce. I livelli audio sono a posto. Tom. Perfetto. Mi senti? Aspetta. Sente l'audio, aspetta un attimo, ci avviamo tu, me. Vediamo un po', apri con, vediamo, Windows come gli Aprilia. E se avete... Mario, Vicente, sono lo sceriffo, sto andando via, vi saluto a tutti. Ehi, sceriffo, la pistola ce l'hai? Sì. Guarda, Ghiccio. Sono in fretta, devo chiudere, ce ne sentiamo, dai. Troppo tardi ho fatto. Dove stai andando? A casa me ne sto andando. No, aspetta un attimo, mi sta portando la fine, Antonio. Ma fine. Pianto. E avete con voice. Ma lì sei cantato davvero? Tanto già ci sono, non ti preoccupare. E che allora bisogna... Abbiamo fatto un passo avanti. Cioè il passo più lungo del piede ho fatto. Piano piano ti fai gli altri mezzi passi. Cappa. Bisogna che me la cerchi piano piano, uscirà prima o poi il brano giusto. Se avessi agganciato lo schermo un attimino. Eia. Chi era poco fa lo? Antonio, mi senti? E non ci sono i driver, non li fa vedere. Che è successo? Devo scaricare i driver, ti ho detto, non me lo fa vedere, adesso vediamo, ora così c'è, scarico, metto il programma. Fai così. Cappa. Adesso io non tocca di molti minori di so. Vedi un po'. Chi è il Rocci? Oi oi oi, non so, pure chi ci manda quando rompete la balla, rompete le balle. Facciamo qualcosa, facciamo una scoffa. Non ho capito chi era. Ah, boh. Ci siamo, sì, prova. E chi è? Avanti. Avanti su 10. C'è qualcuno che sta arrivando basso, ma non capisco chi sia. Chi è che è avanti? Sto provando un microfono, mi sentite? Ehi, avanti! Grazie, ci vediamo, ciao! Ciao, buona giornata, ma chi sei? Ehi, bussavo anche camionista. Cappa, boh, arrivava a 7, non so dove sia. Oh, è meglio un metro, ma viene anche, viene, no? Che è meglio? Ah, guarda, guarda. Va bene, Diello. No, devo caricare i driver. Ah, già compreso. Devo scaricare il driver... come si dice? Il driver video, se no non funziona. Eh beh, prima c'era, adesso non c'è. È l'unico che non funziona. Come ho spiegato, quando prima era Windows 7 c'erano tutti, io ho fatto un reset per pulirlo. E ti ho già spiegato che Windows 7 non fa più aggiornamenti. Lo so, ci vuole coso, cioè ci, logicamente anche se tu ne metti un altro ci vuole sempre il coso della scheda video. Esatto. E già me lo compro bello, verrai e rimarrai stupito. Anto, purtroppo questi qua, già va bene però è troppo piccolo. Cappa, poi gli subio pio sempre, cappa cappa. Cosa cazzo metti di ghiaccio? Sono con un po' fare un ma già ci arriverò per una bella storia. Piano piano, non è presa e... Cazzo di più ce l'hai già. Cappa. Faccio un programma allucinante, mi volto di karaoke. Esci, mi auguro anche d'uno. Infatti. Se lo pagava, poi già... Non ti preoccupare. Come cosa io stavo pensando di fare... prima scelta e seconda scelta. Casse mixer, capito? Io posso fare... potrei utilizzare il mixer grande quando vuoi, le casse belle, quando bagani. quando vai anche lui che paga un po' di manco, già la roba più meno performante. Fai usci. Oh, attenzione, non ti credere, non è che sia di meno, no. Capito? Ah, beh, certo. È che sono più piccole, basta. Hanno il suono, non è lo stesso, però viaggiano, vanno bene anche quelle. Sì. Chiappa, le DB sono un altro mondo, sono. E adesso vediamo. Chiappa, attenzione, non è che siano di meno quelle là, però... Eppure ci devo riuscire a cagosa, boh. E se io voglio mettere... Se io decido un giorno lì il brano di trasferirmi tutti in un pennino e poi lasciare gli altri, non si può fare. Sì. Cappa. Io ho fatto la cosa, beh. Lui invece non sa cosa c'ha, io me l'ho notato. Si chiama... Aspetta, DJ... Che cazzo si chiama? Aspetta... Comunque è un programma che usa lui, me. Chi? Costantino usa un programma che fa anche basi musicali così. Ah, boh. Non lo so, quale sarebbe? Si chiama DJ, cazzo adesso non mi viene. No, non me lo dà. Cazzo, ma dico, no, un promemoria non me lo dà adesso. Lo usa sicuramente per fare molte cose. E te non vi ha tanto, ti voglio la pressa. Devo capire un po' di cose. Ti do la cosa, si è barato l'hard disk a Giuseppe. E se chi gliela date? Le basi. Chi? Giuseppe Friggia ve l'ha date. Ah. Mi ha già domandato io un cazzo che me ne ha dato. Gli ho detto la cosa, scaricamela, gli ho detto. Cavolo, scaricamela te le basi, non me ne ha mai fatto. Te la bigli in culo. Casino, se le fate di pagare. Dice se le fanno pagare quelle buone, è vero? Ah, se ne ha contato se non andiamo le da. Tranquillo. Sono pigliato un cazzo di cose, andiamo qua sono sempre in chiave, dai cazzo stesso sono di un peso, andiamo un po', beh, adesso avanti Luca, aspetta un attimo, dimmi. Un attimo, metto qua un nuovo video, un attimo, No, io ti saluto, c'ho sonno, c'ho. Ci sentiamo domani, buonanotte. Ok, ciao, domani anche a te, ciao, domani. Ciao, ciao. Grazie a tutti.